Buongiorno, questo è il cammino di Gigi, D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Buongiorno, avevo già detto. Stai zitto un pochino. D'Agostino è a vostra disposizione. Se volete scrivere il vostro messaggino, il vostro pensierino a Gigi D'Agostino. Se volete scrivere il vostro messaggino, il vostro pensierino a Gigi D'Agostino. Il numero di SMS è il seguente: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica vuoi ascoltare? Vuoi ascoltare? Vuoi ascoltare? Sì, dai. Su M2O ti devi sintonizzare. M2O. MD. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Gigi D'Agostino, insegnami a diventare un burino. Spaccherò il comodino. Vabbè, getto. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ogni giorno ci gira intorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Piscia un po' sta musica. Gigi D'Agostino, mica noccioline. Mica noccioline, Qui si va di cassa. Cassa, cassa, cassa, cassa. Perché non metti senza ragione? Senza ragione. Perché non metti senza ragione? Perché non metti ti senza ragione? Del dottor Doug. Ehi,

D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Un altro modo di fare musica. Bravo. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Sono Ile 90. Un saluto ad Agostino, l'amore mio. Sono Maddalena 91. Anch'io ogni giorno seguo il tuo cammino. Volevo mandare un bacio fortissimo al mio Alex e dirgli che è il ragazzo dei miei sogni. Like a river, this is the way that it has to be. Ci fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non siamo al reparto olive. Camminiamo a tempo, perché questo è un cammino ritmato, musicato, ritmato. Prova un po' a mettere la voce a tempo. Mettimi a tempo, a colpi di cammino si esce dalla giungla, a colpi di cammino si esce dalla giungla. Colpi di cammino si esce dalla giungla, colpi di cammino si esce dalla giungla, colpi di cammino si esce dalla giungla, colpi di cammino si esce dalla giungla, colpi di cammino si esce dalla giungla, colpi di cammino si esce dalla giungla, colpi di cammino si esce dalla giungla, colpi di cammino si esce dalla giungla.

sono Christian, da Aitone, Sicilia. Volevo mandare un saluto alla mia morena. Benissimo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Isao, volume, abbasso finestrino, chi c'è, Gigi D'Agostino. Isao, volume, abbasso finestrino, chi c'è, Gigi D'Agostino. Vai che fo'. La batteria è completamente caricata. La batteria è completamente caricata. La batteria è completamente caricata. La tua musica ha risvegliato in me vecchie passioni. E poi, la voce della ragazza che legge le dediche mi provoca degli scompensi ormonali che mi durano tutta la notte. Gli piaci? Sì, vabbè. No, poi dicono... Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Tutti insieme... A tempo. Se volete scrivere il vostro messaggino a Gigi D'Agostino, 333-64-67-662. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. Al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare.

Elena Tanz. Dai, fai l'annuncio, lavora. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello domenica pomeriggio, 22 ottobre, alla discoteca Vanilla, Moimacco, Udine. Cominciamo ad andare? È ancora un po' presto, è appena lunedì. No, perché mi piace essere preciso. Sì, vabbè. M2O, musica allo stato puro. Gigi, voi vivete il privilegio di sapervi spendere per gli altri. Amo pagato. Tutto a posto. Eddie da Castiglione. Abbiamo ricevuto messaggi da ogni angolo del globo. Oggi già. Ciao Gigi, sono Elio. Oggi, 16 ottobre, è un anno che sono con il mio grande amore Marie-Claude. Le dedico Per me amore, parce que, pour moi, amour, vuoi dire? Che dici? T'avoir rencontré. Ragazze, se non sai leggere stai a casa, qui non abbiamo tempo da perdere. Sì, sì. Hola Gigi, soy de Leida, Spagna. Hola puta. Voglio dedicare una canzone a Jordina, perché para mí amor significa haberla encontrado a ella. Grazie Gigi, grande serata ieri. En pacha. Olé. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore, forse vuol dire sentirsi vivi. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. 16 ottobre. È passato un anno da quella magica sera del 16 ottobre 2005, quando vidi una piccola bimba. Che hai bimbi. Che oggi è la mia piccola e lo sarà per sempre. Facci ascoltare Per me amore tante volte senza mai stancarmi di dirle che la amo da vivere, da impazzire. Il tuo Sergio. Per me l'amore vuol dire aver incontrato te. Non voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesce ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Ciao, sono Lorenzo da Milano. Vorrei dedicare Per me amore alla mia Gaietta. Ti amo, bimba. Che hai bimbi. Avevo già detto. Dai. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Ciao Gigi, sono Katiuscia. Volevo che dedicassi una canzone a me e al mio ragazzo Pietro, l'angelo più bello del cielo. Volevo dirgli che anche se lui non c'è più, lo amerò per sempre e lo porterò per sempre nel mio cuore. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Fly with you. Certi silenzi spontanei danno emozioni più intense di mille parole costruite. Claudia. Sono DJ Coma direttamente dal forum gigidagostino.com. Vorrei dedicare alla mia sorellina Irene l'Amour Toujours perché le voglio bene. A Irene. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Siamo Pallas, Dido e Alessandra. Volevamo dedicare a Robbie B quella canzone che sembra il remix di Voyage. Ma che è? Oh, blah, blah, blah, oh. Ah, sì. Sì, vabbè. Per il suo 25esimo compleanno. Robby, anche se sei un pirla, pirla, ti vogliamo bene. Il Cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a soccorsa da Reggio Emilia. In che senso? Sonia da Vicenza. Alberto di Mocalì. Ragazze, se non sai leggere stai a casa. Alberto di Moncalieri e i suoi 18 anni. Daniele da Bologna. Vorrei dedicare lo sbaglio a Giorgia per farle capire il suo errore. Mettereste lo sbaglio per gli amici di Muros, Sassari? Sì. Sono Mauro. Dedico lo sbaglio a Giovanna di Alessandria. Nel cammino della vita si sbaglia, ma io non sbaglio e ti amo. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma, e se lo fa, sa quanto fa. Chi lo sa quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa quando è che è meglio, sai per capire cosa non sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire che non si taglia. Chi lo sa se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. Cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarre. È vero, è vero. Grazie per aver scelto questo mondo.